storia e la memoria di Dino Pesole. Questa sera vi raccontiamo una storia all'apparenza banale. La storia di una donna, Sibylle, una donna nobile, ricca, francese, che cade nelle mani di un gruppo di banchieri. Gruppo di banchieri che la spogliano di quasi tutti i suoi averi. Da ricca Sibylle diventa povera e prova a reagire. Testimoni, giudici, avvocati, notai. Comincia una guerra giudiziaria che si conclude male per la sfortunata Sibylle. Fin qui, voi direte, non sembra essere una storia particolarmente originale, soprattutto di questi tempi. Lo diventa quando scopriamo che la storia è avvenuta non in questo secolo, né nel secolo precedente, ma molto più indietro nel tempo. È una storia che comincia nel 1355. A raccontarcela stasera è l'autore del libro Dalle lacrime di Sibylle, storia degli uomini che inventarono la banca, appena pubblicato dalla Terza. Buonasera e benvenuto ad Amedeo Feniello, storico medievista, di recente è stato direttore d'Institut d'Invité presso l'École des Études di Scienze Sociali di Parigi e ha insegnato storia del Mediterraneo nel Medioevo presso la Northwestern University con sede a Evanston, Chicago. Buonasera e bentornato, Feniello. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, il professor Feniello è autore di numerosi saggi e volumi sulla società e l'economia dell'Italia medievale. Ha pubblicato nel 2011 in questa stessa collana il libro Sotto il segno del leone, storia dell'Italia musulmana, di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 24. Allora, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori la storia di questa donna. È una storia appunto che ci porta molto indietro negli anni, siamo nel Medioevo. Sì, siamo nel, come diceva lei appunto prima, nel 1355, e questa donna, Sibylle de Cabry, una nobile di una potente famiglia della Provenza, incappa nel grande fallimento delle banche fiorentine avvenuto proprio in quegli anni. Sibylle aveva lasciato parte del suo denaro nelle mani di un gruppo legato al potente trust dei Bardi e Peruzzi e praticamente perde tutto il denaro ed è costretta ad una causa giudiziaria per lei turbinosa, a tratti violenta, che le impone delle scelte gravissime che arrivano fino alla denuncia degli stessi banchieri, che si difendono in una maniera veramente moderna, cioè attaccandola su tutti i fronti. Quindi grande fallimento delle banche fiorentine, e quindi la storia acquisisce da questo punto di vista un'attualità incredibile, poiché appunto, come sappiamo, nei nostri tempi di questo ci stiamo occupando tristemente, cioè di fallimenti di banche, soprattutto dopo la grande crisi. Quindi è una storia di molti secoli fa, ma che ha una grande attualità. Sì, assolutamente, questa storia è un pretesto e la premessa per raccontare appunto la nascita della banca, che avviene intorno agli anni 50-60 del XIII secolo e che culmina col grande crack finanziario appunto dei Bardi e Peruzzi della metà del 300. Sono 100 anni che marcano in maniera straordinaria la nostra vicenda, la vicenda anche del nostro mondo, perché sono gli anni della nascita del capitalismo, gli anni del rapporto fra banca e finanza, e il periodo in cui nasce appunto il concetto della ricchezza per la ricchezza, che è alla base di qualunque concezione moderna del capitalismo appunto. Allora, e com'erano le banche alla metà degli anni del XIII secolo? Erano banche, immaginiamo, diverse da quelle attuali, ma appunto con regole probabilmente simili, cioè nel caso specifico Sibylle resta impigliata in una storia di prestiti che poi non vengono restituiti o cos'altro? Lei resta impigliata in una storia particolare, sì. È una donna che aveva dei possedimenti oltre che in Provenza anche nel Regno di Napoli, aveva dei castelli nel Regno di Napoli. Questi, per necessità proprie, nel periodo appunto della crisi trecentesca, che è stata la più violenta crisi dell'epoca medievale, è costretta a vendere questi castelli e si serve per il passaggio del denaro dal Regno di Napoli ad Avignone, dove sarebbe dovuto arrivare il denaro, di banchieri toscani. Ma mentre le aspetta questo denaro, i banchieri toscani falliscono e quindi la donna perde tutto il suo denaro. Ed è una tragedia. La donna, abbiamo questa cronaca che racconta appunto il dolore di questa donna, il terrore di questa donna, che perde una cifra enorme per il tempo, corrispondente a 1500 fiorini. Immaginate che più o meno in quel periodo, con 300.000 fiorini, si sarebbe potuta sfamare tutta la popolazione di Venezia e di Firenze per un anno. Quindi 1500 fiorini era una cifra veramente enorme. La donna perde tutto, non sa che fare e comincia la causa. Allora ci racconti innanzitutto quello che poi c'è scritto nel prologo, molto interessante, di questa storia, per molti versi poco conosciuta, se non per pochi addetti ai lavori, da quello che si capisce. Ma come è entrato in contatto con la storia di Sibille? Ma sono entrato in contatto con questa storia in maniera abbastanza banale, nel corso di una conversazione. E siccome faccio lo storico per mestiere, e talvolta capita che qualcuno ne sappia, conosco una storia più di te. E in questo caso mi fu raccontata questa storia, mi fu detta: ah, guarda, c'è questa donna che ha perduto tutto il suo denaro, ma capisce, nel 300 è una cosa eccezionale, mi è avvenuta prima, mi è accaduta prima. E devo dire che al primo momento pensavo che questa storia fosse leggendaria, che non esistesse, che fosse stata inventata. Dopodiché, sia uno storico italiano, prima Luzzatti, e poi dopo, in maniera più accurata, Noël Coulet, hanno pubblicato l'intera fonte relativa alla vicenda di Sibille, ho avuto modo poi di scoprire che questa storia era davvero accaduta, e soprattutto questi storici l'hanno raccontata in maniera veramente dettagliata per un pubblico ristretto, ma con una capacità filologica unica. Allora, bancarotta, crack, tracollo, dissesto, rovina, si legge nel libro, concetti che abbiamo assorbito, fanno parte del nostro background, ma per Sibille è qualcosa di più di uno shock. È una novità, perché, si legge nel libro, non esistono precedenti. E dunque, nella prima crisi che potremmo definire del capitalismo finanziario, seppur in epoca medievale, ma comunque anticipa quello che poi sarebbe avvenuto nel corso dei secoli successivi, torniamo alla centralità della banca. Allora, che ruolo ha la banca nel 300 e come si interseca con la vicenda personale di Sibille? Allora, la banca ha un ruolo centrale già all'epoca, in quanto tre delle maggiori entità politiche esistenti al tempo, una di carattere universale e le altre due a carattere nazionale, anche se possiamo parlare di caratteri nazionali ancora da definire con precisione, si servono delle banche per finanziare la propria vita e la propria attività politica. Parlo nello specifico dello Stato Pontificio, che per primo si serve della grande banca per poter gestire i propri fondi sparsi in tutta Europa, poi dell'Inghilterra e del Regno di Napoli. Queste tre entità, senza la banca, non avrebbero potuto costruire parte della loro forza. Il Regno di Napoli, per esempio, non avrebbe avuto la capacità di creare una capitale così grande come Napoli senza il contributo finanziario delle grandi banche fiorentine. Addirittura si parla di sistema angioino-fiorentino nella gestione del regno. La grande potenza inglese si forma grazie alla capacità finanziaria delle banche, prima lucchesi, poi senesi, poi fiorentine. Si parla proprio, nel caso specifico delle banche lucchesi, di questo cosiddetto sistema Riccardi, che viene generato proprio attraverso il connubio, per la prima volta nella storia in maniera precisa, tra la finanza bancaria e una monarchia in crescita come quella inglese. Allora, veniamo all'aspetto più giudiziario di tutta questa vicenda. Il processo, i processi si trascinano nel tempo e addirittura si legge nel libro a un certo punto si riesce quasi a convincere i giudici che questa donna addirittura non sia nemmeno esistita. E come si è arrivati a questo finale un po' a sorpresa di questo processo? Questa è la parte più bella di questa storia. Devo dire che io sono rimasto molto colpito dal coraggio di questa donna. Cioè, in un'epoca in cui la figura femminile aveva connotati, potremmo definire per certi versi, marginali nei confronti con l'altra parte del mondo, questa donna invece affronta con coraggio il processo e viene attaccata in tutti i modi possibili. Cercano di convincere i giudici che il figlio non sia suo figlio, cercano di convincere i giudici che la donna non è lei, la persona che avrebbe dovuto ricevere il denaro. Alla fine, per un cavillo presente in alcuni documenti dove il suo nome era riportato in maniera differente, addirittura gli avvocati avversi ritengono che questa donna non esista. Si soffermano su questo particolare e dicono: la donna si chiama, è riportata nei documenti come Sibylle de Capri, non de Cabri. Quindi questa Sibylle de Capri che è davanti a noi è un'altra persona. Uh-huh. A quel punto il giudice deve organizzare una vera e propria fase parallela, deve istituire una fase parallela del processo in Provenza per stabilire se questa donna esista oppure no. E quindi riunisce tutta una serie di testimoni che conoscevano Sibylle de Capri e chiede ad ognuno di loro testimonianze, aspetti particolari, vicende relative alla vita della donna. E così è pervenuto a noi questo dossier straordinario che racconta ogni fase specifica della vita di questa donna, ogni elemento che va dalla sua vita privata fino appunto a questo processo terribile che non sappiamo poi come va a finire. Bene, allora abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie ad Amedeo Feniello che ci ha raccontato questa storia molto interessante, dalle lacrime di Sibylle, storia degli uomini che inventarono la banca, che è stato pubblicato da La Terza. Buona serata. Grazie a voi.